Il terzo anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato, Museo dell'Audiovisivo. Sandro Lombardi legge Il giardino dei Finzi Contini, di Giorgio Bassani. Come ho già detto, scaduto il 20° giorno di esilio, avevo ricominciato a frequentare Casa Finzi Contini ogni martedì e venerdì. Non sapendo però come trascorrere le domeniche, anche se avessi voluto riallacciare i rapporti coi vecchi compagni di liceo, con Nino Bottecchiari o Otello Forti, o coi più recenti d'università conosciuti negli ultimi anni a Bologna, non avrei potuto, erano tutti partiti per le villeggiature, mi ero permesso di andarci in soprappiù anche qualche domenica. E Nicole aveva lasciato correre. Non mi aveva mai richiamato a rispettare alla lettera i nostri patti. Adesso eravamo molto riguardosi l'uno con l'altro, perfino troppo. Consapevoli di aver raggiunto un equilibrio abbastanza stabile, sì, ma sostanzialmente precario, badavamo a non romperlo, a mantenerci in una zona neutra, di mutuo rispetto, dalla quale erano escluse le soverchie confidenze, non meno che le freddezze eccessive. Quando Alberto se la sentiva di giocare, e ciò capitava sempre più raramente, mi prestavo volentieri a fare da quarto, evitando tuttavia, se possibile, di mettermi in coppia con Nicole. Ma il più delle volte non mi spogliavo neanche. Preferivo arbitrare i lunghi, accaniti singolari che avevano luogo tra lei e Malnate, oppure, sedendo sotto l'ombrellone al lato del campo, tener compagnia ad Alberto. Evidentemente peggiorata, la salute di quest'ultimo mi preoccupava, mi angustiava. A poco essa era diventata per me un'altra spina segreta, il motivo di un rovello forse anche più acuto e doloroso del pensiero pur sempre assiduo di Nicole. Guardavo il suo viso allungato dal dimagrimento, mi sospendevo a verificare attraverso il suo collo, invece ingrossato, il passaggio del respiro, che mi pareva di giorno in giorno più faticoso, e il cuore mi si stringeva, oppresso da un arcano rimorso. C'erano momenti che avrei dato qualunque cosa pur di vederlo rifiorire. «Perché non vai un po' via?» gli avevo chiesto un giorno. Si era voltato a scrutarmi. «Mi trovi giù?» «Beh, giù, magari no. Direi che sei un tantino dimagrito, ecco. Ti dà noia il caldo?» «Parecchio», sbuffò. Alzò le braccia per accompagnare una lunga ispirazione. «Da qualche tempo, caro mio, tiro proprio il fiato coi denti. Andar via. Ma dove andare?» «Penso che la montagna ti farebbe bene. Cosa ne dice tuo zio? Ti ha visitato?» «Ma sì, lo zio Giulio garantisce che non ho un accidente. E deve essere vero, ti pare, altrimenti una qualche cura me l'avrebbe pure ordinata. Secondo lo zio, anzi, posso benissimo giocare a tennis quanto voglio. Che più? È il caldo, sicuramente, ad abbattermi così. Difatti, non mangio niente. Una sciocchezza, addirittura.» «E allora? Visto che si tratta del caldo, perché non vai una quindicina di giorni in montagna?» «In montagna d'agosto, per carità. E poi...» qui sorrise. «E poi, Judensind dappertutto, unerwünscht. Te ne sei scordato?» «Ah, storie. A San Martino di Castrozza no, per esempio. A San Martino ci si può benissimo andare, come del resto anche al Lido di Venezia, agli Alberoni. Lo ha pubblicato il Corriere della Sera la settimana scorsa.» «Che tristezza. Passare il Ferragosto in albergo, gomito a gomito con sportive frotte di Allegri Levi e Kohanim. Non me la sento, scusa. Preferisco aspettare a Piefermo il settembre.» La sera successiva, approfittando del nuovo clima di intimità creatosi fra noi dopo che mi ero azzardato a sottoporre al suo giudizio i miei versi, mi risolsi a parlare della salute di Alberto con Malnate. «Non c'era dubbio», dissi. «Secondo me Alberto aveva qualcosa. Non aveva notato anche lui come respirava a fatica? E non gli sembrava perlomeno strano che nessuno di casa sua, né suo zio né suo padre, avesse preso finora la benché minima iniziativa per curarlo? Lo zio medico, quello di Venezia, non credeva nelle medicine, e sta bene. Ma tutti gli altri, la sorella compresa, calmi, sorridenti, serafici. Nessuno muoveva un dito. Malnate stette ad ascoltarmi in silenzio. «Non vorrei che tu ti allarmassi eccessivamente», disse infine, con una lieve sfumatura di imbarazzo nella voce. «Ti sembra sul serio così deperito?» «Ma santo Dio!» proruppi. «Se in 2 mesi sarà calato di 10 chili!» «Ehi là! Bada che 10 chili sono tanti! Se non saranno 10, saranno 7, 8, almeno!» Tacque, meditabondo. Poi ammise che anche lui, da un po' di tempo in qua, si era accorto che Alberto non stava bene. D'altra parte, soggiunse, eravamo proprio sicuri, noi due, di non agitarci a vuoto? Se i suoi familiari più stretti non si muovevano, se nemmeno la faccia del professor Ermanno tradiva la più piccola inquietudine, ebbene, il professor Ermanno, ecco, nel caso che Alberto stesse veramente male, era da supporre che non gli sarebbe venuto nemmeno in mente di far venire da Imola quei 2 camion di terra rossa per il campo di tennis. E sempre a proposito del campo di tennis, lo sapevo che tra qualche giorno sarebbero cominciati anche i lavori per ingrandire i famosi out. Così, prendendo le mosse da Alberto e dalla sua presunta malattia, avevamo insensibilmente introdotto nelle nostre conversazioni notturne anche il tema, prima d'allora tabù, dei finzi contini. Ci rendevamo conto chiaramente, ambedue, di camminare su un terreno minato, e appunto per questo procedevamo sempre con molta cautela, attentissimi a non sbilanciarci. Malnate, tuttavia, ogni qualvolta si parlava di loro come famiglia, come istituzione, non so chi dei due avesse adoperato per primo questa parola. Ricordo che ci era piaciuta, che ci aveva fatto ridere. Non risparmiava le critiche, anche le più dure. «Che gente impossibile», diceva. «Che nodo curioso, assurdo, di contraddizioni insanabili rappresentavano socialmente. Certe volte, pensando alle migliaia di ettari di campagne che possedevano, pensando alle migliaia di braccianti che gliele zappavano, le campagne, disciplinati e sottomessi schiavi del regime corporativo, certe volte gli veniva quasi da preferire a loro i truci agrari normali, quelli che nel 20, nel 21, nel 22 non avevano esitato ad allargare le borse per mettere in piedi e foraggiare le squadracce di picchiatori e oliatori in camicia nera. Quelli là, almeno, erano fascisti. Quando se ne fosse presentata l'occasione, non sarebbero certamente sorti dubbi su come trattarli. Ma i finzi contini? E scuoteva il capo, con l'aria di chi, volendo, potrebbe anche capire, però non vuole, non gli va. Le sottigliezze, le complicazioni, le distinzioni infinitesimali, per interessanti e divertenti che siano, a un certo punto basta, anche loro debbono avere un limite. Una notte, tardi, dopo Ferragosto, ci eravamo fermati a bere del vino in una fiaschetteria di via Gorgadello, di fianco al Duomo, a pochi passi di distanza da quello che, fino a 1 anno e mezzo prima, era stato l'ambulatorio medico del dottor Fadigati, il noto otorinolaringoiatra. Tra un bicchiere e l'altro avevo raccontato a Malnate la storia del dottore, del quale, nei 5 mesi antecedenti al suo suicidio per amore, ero diventato tanto amico, l'ultimo che gli fosse rimasto in città. Avevo detto «per amore», e Malnate non era riuscito a risparmiarsi a questo punto una risatina sarcastica di tipo prettamente goliardico. Da Fadigati a venire a parlare dell'omosessualità in genere, il passo era stato breve. Malnate, in materia, aveva idee molto semplici. Per lui i pederasti erano soltanto dei disgraziati, dei poveri ossessi, di cui non metteva conto di occuparsi che sotto il profilo della medicina o sotto quello della prevenzione sociale. Io, al contrario, sostenevo che l'amore giustifica e santifica tutto, perfino la pederastia. Di più, che l'amore, quando è puro, cioè totalmente disinteressato, è sempre anormale, asociale, eccetera, proprio come l'arte, avevo aggiunto, che quando è pura, dunque inutile, dispiace a tutti i preti di tutte le religioni, compresa quella socialista. Messi da parte i nostri bei propositi di moderazione, una volta tanto ci eravamo accaniti a discutere quasi come nei primi tempi, fino al momento in cui, rendendoci conto a un tratto di essere un po' bevuti, eravamo scoppiati concordemente in una gran risata. Dopodiché eravamo usciti dalla fiaschetteria, avevamo attraversato il listone semideserto, risalito San Romano, per ritrovarci infine a camminare senza una meta precisa lungo via delle volte. Priva di marciapiedi, il ciottolato pieno di buche, la strada appariva anche più buia del solito. Come sempre, mentre avanzavamo quasi a tentoni e con l'unico ausilio per dirigerci della luce che usciva dai portoncini socchiusi dei bordelli, Malnate aveva attaccato qualche strofa del Porta, non già della Ninetta, ricordo, bensì del Marchion di Gambavert. Declamava a mezza voce, nel tono amaro e doloroso che sempre assumeva recitando il lament. Finalmente l'alba, tante volte spionata, le comparsa anche lei dai fili d'ur. Ma qui di colpo si era interrotto. «Cosa ne diresti?» mi chiese, e accennava col mento alla porta di un postribolo, «se entrassimo a vedere». La proposta non aveva nulla di eccezionale, tuttavia, venendomi da lui, col quale non avevo mai fatto che discorsi seri, mi stupì e mi imbarazzò. «Non è dei migliori», risposi. «Deve essere di quelli da meno di 10 lire. Comunque, entriamo pure». Era tardi, quasi l'una dopo mezzanotte, e l'accoglienza che ci fu riservata non fu delle migliori. Tutto si svolse molto rapidamente. Quando la ragazza ed io tornammo da basso, Malnate stava conversando con la tenutaria. Aveva tirato fuori la pipa, parlava e fumava. Si informava del trattamento economico riservato alle prostitute, del meccanismo del loro avvicendamento quindicinale, del controllo medico, eccetera, e l'altra gli rispondeva con pari impegno e serietà. «Bon», fece infine Malnate, accortosi della mia presenza, e si alzò. Mi passò davanti, attraversò l'anticamera dirigendosi verso le biciclette che avevamo appoggiato al muro, di fianco all'uscita, mentre la tenutaria, diventata ormai molto gentile, correva avanti ad aprirci la porta. «Buonanotte», la salutò Malnate. Lasciò cadere una moneta sulla palma protesa della portinaia e uscì per primo. «Ciao, amore», gridò Gisella, sbadigliando, prima di sparire nel salottino dove stavano radunate le compagne di lavoro. «Torna, eh?» «Ciao», risposi, uscendo a mia volta. «Buonanotte, signori», mi svegliò rispettosamente la tenutaria dietro le mie spalle, e sentii che chiudeva il portoncino col catenaccio. Le mani appoggiate ai manubri delle biciclette, risalimmo via Scienze fino all'angolo di via Mazzini. Qui giunti, piegammo a destra per il Saraceno. Adesso era Malnate a parlare, soprattutto. Mi riferiva a quello che aveva saputo dalla padrona del bordello. A Milano, fino a qualche anno prima, diceva, anche lui era stato un cliente abbastanza assiduo del famoso casino di San Pietro all'Orto, dove, aggiunse, aveva tentato a varie riprese, senza alcun risultato, di portare anche Alberto, ma soltanto adesso si era dato la pena di assumere qualche informazione circa le leggi che regolavano il sistema. «Cristo d'un Dio», deplorò. «Che vita, quella delle puttane! E come era abietto e retrivo lo stato etico a organizzare un simile mercato di carne umana!» Quindi, notando che gli rispondevo appena, di malavoglia, «Cos'hai?» chiese. «Non ti senti bene?» «Ma no!» «Omne animal post coitum triste», sospirò. «Ma non pensarci. Schiacciaci sopra una buona dormita e vedrai che domattina andrà di nuovo magnificamente». «Lo so, lo so». Svoltammo a sinistra, per via Borgo di Sotto. «Da queste parti dovrebbe stare la maestra Trotti», disse, accennando alle casupole di destra, dalla parte di via a fondo banchetto. Non risposi. Lui tossì. «Beh, come va con Nicole?» Ad un tratto fui assalito da un gran bisogno di confidarmi, di aprirgli il mio animo. «Male va. ho preso una scuffia terribile. Di questo ce ne siamo accorti, rise Bonario. Da un pezzo. Ma come va adesso? Ti maltratta sempre? No, come avrai osservato, negli ultimi tempi abbiamo raggiunto un certo modus vivendi. Sì, l'ho notato, che non vi beccate più come prima. Mi fa piacere che stiate ritornando amici. Era assurdo. La bocca mi si deformò in una smorfia, mentre le lacrime mi annebbiavano la vista. Malnate dovette accorgersi del mio stato. Su, su, esortò imbarazzato. Non devi lasciarti andare così. Non credo affatto che torneremo amici, mormorai. È inutile. Sciocchezze, disse lui. Se sapessi invece il bene che ti vuole. Quando non ci sei e parla di te, ne parla spessissimo. Guai a chi si azzarda a toccarti. Salta su che sembra una vipera. Anche Alberto ti vuol bene e ti stima. Ti dirò, anzi, forse sono stato un po' indiscreto, ma qualche giorno fa ho recitato anche a loro la tua poesia. Ora non puoi nemmeno immaginare come gli è piaciuta. A tutti e due, bada. A tutti e due. Non so cosa farmene del loro bene e della loro stima, dissi. Intanto eravamo sbucati nella piazzetta davanti alla chiesa di Santa Maria in Vado. Non si vedeva anima viva, né lì né lungo via Scandiana fino al Montagnone. Ci dirigemmo in silenzio verso la fontanella posta di fianco al sagrato. Malnate si chinò a bere, ed io pure. Dopo di lui bevvi e mi lavai la faccia. Vedi, seguitò Malnate, avviandosi nuovamente, secondo me sei in errore a dire così. L'affetto e la stima, specie in tempi come questi, sono gli unici valori su cui si possa contare veramente. Che cosa c'è di più disinteressato dell'amicizia? D'altra parte, non mi sembra, almeno per quello che ne so io, non mi sembra che tra voi sia successo niente di... Può darsi benissimo che col tempo... Ecco, per esempio, perché non vieni a giocare a tennis più spesso, come qualche mese fa? Non è mica detto che la tattica delle assenze sia la migliore? Ho l'impressione, caro mio, che tu conosca poco le donne. Ma se è stata proprio lei a impormi di diradare le visite, proruppi, cosa vuoi, che non le obbedisca? Dopotutto è a casa sua. State zitto per qualche secondo, pensieroso. Mi sembra impossibile, disse infine. Magari lo capirei anche, sì, se tra voi in precedenza ci fosse stato qualcosa di, come dire, di grave, di irreparabile. Ma in fondo, che cosa è successo? Mi scrutò, incerto. Scusa la domanda poco diplomatica, riprese, e sorrideva. Sei mai arrivato a baciarla, almeno? Sì, molte volte, sospirai disperato, purtroppo per me. Gli raccontai quindi, con minuzia di particolari, la storia dei nostri rapporti, rifacendomi fino dal principio e senza tacere dell'episodio del maggio scorso, in camera sua, episodio che io ritenevo, dissi, determinante in senso negativo e irrimediabile. Descrissi, fra l'altro, il modo come la baciavo, o almeno come, a più riprese e non soltanto quella volta in camera da letto, avevo tentato di baciarla, nonché le varie reazioni di lei, quando più disgustate e quando meno. Mi lasciò sfogare, ed ero così assorto, così perduto in queste amare rievocazioni, da non badare al suo silenzio, diventato a un tratto ermetico. Eravamo fermi davanti al portone di casa mia da quasi mezz'ora ormai. Di colpo lo vidi trasalire. «Caspita», borbottò controllando l'ora. «Sono le 2:15. Bisogna proprio che vada, se no chi si sveglia domattina?» Balzò in sella. «Ciao, mi salutò. E su con la vita!» Aveva un viso strano, notai, come ingrigito. Che le mie confidenze d'amore l'avessero annoiato, seccato? Stetti a guardarlo mentre si allontanava velocemente. Era la prima volta che mi piantava lì in quel modo, senza aspettare che fossi entrato in casa.